l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua con il nostro appuntamento a mezzogiorno nel nuovo orario con l'Europa, che ci piace raccontare a modo nostro, proponendo anche altri punti di vista. L'attualità politica ed economica dell'Europa viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfaccettature, raccontiamo l'Europa della cultura, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Come sempre vi invito a visitare il sito, il portale euronetplus.eu, perché è una bella piazza virtuale di incontro, di incroci, di reportage, di notizie, di storie in tante lingue diverse. Poi invece ci sono le coordinate per trovare noi nei nostri spazi digitali, @euronetplusr24, oppure il mio account personale @federicotaddia su Facebook e su Twitter, bacheche che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, e oggi partiamo proprio da là, partiamo dalle origini del pensiero che ha portato a costruire un'Europa unita. Partiamo da Ventotene. Sarei stato io a suscitare dal nulla un movimento nuovo e diverso. Non avevo che un manifesto e i miei amici. Questa è la storia di un'amicizia. Ernesto Rossi. Altiero Spinelli. Eugenio Colorni. Di una passione senza confini. Immaginano un'Europa senza frontiere, come gli Stati Uniti d'America. È la storia di spiriti liberi. Dobbiamo portare il manifesto per l'Europa. Come? Quei colombi viaggiatori. Due colombe. E pensieri audaci. Io ho abbandonato la fede comunista. Spiriti liberi, pensieri audaci. Un gruppo di amici sono Ernesto Rossi, Ursula Hiss, Eugenio Colorni, Ada Rossi, Altiero Spinelli, pensatori, liberi pensatori che diedero vita sull'isola di Ventotene a quel manifesto, appunto, sull'Europa unita, che per primo ha ideato, questi visionari per primi hanno visto la possibilità di un'Europa unita. Tutto ciò viene raccontato da una fiction Rai in onda domenica, domani sera su Rai 1, Un mondo nuovo è il titolo, e credo come sempre un bel modo per raccontare pezzi di storia a volte non conosciuti, che almeno così vengono riportati al grande pubblico. Con noi c'è Vinicio Marchioni, l'attore che interpreta proprio Altiero Spinelli. Ciao Vinicio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Allora, credo sia stata una bella emozione. Era una storia che tu conoscevi, quella di Spinelli e dei ragazzi di Ventotene? Ma la conoscevo in maniera molto superficiale, nel senso che ero stato sull'isola di Ventotene, passando nella libreria che sta sulla piazzetta di Ventotene. Certo. Naturalmente sì, lo conoscevo, avevo comprato il manifesto di Ventotene e conoscevo la storia di questo gruppo di uomini incredibili che sull'isola avevano immaginato quella che a quei tempi sembrava essere solo un'utopia. Certo. Però poi, insomma, con la possibilità di interpretarla questa storia, naturalmente mi sono documentato molto di più, e devo dire che è una di quelle storie che in qualche modo ti cambiano anche il modo di pensare, insomma, e avendola, come dire, avendo potuto fare questa esperienza proprio su di me, mi rendo conto che tutto quello che potevo immaginare intorno all'Europa unita, ogni volta che ne sentivo parlare nei telegiornali o leggendo, dopo aver conosciuto molto meglio questa storia, il mio sguardo è completamente cambiato. Certo. È uno sguardo molto più attento e sicuramente più partecipe. Era il 1941, dall'inverno del 1941 alla primavera del 1942, appunto il periodo di confino sull'isola, e poi da lì fino al marzo del 45, quando è stato organizzato questo primo congresso federalista. Insomma, i primi passi per avviarsi verso questa Europa unita. Che tipo era Altiero Spinelli? Ma era un uomo di una praticità enorme, un grandissimo intellettuale, così come lo erano anche Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, che era un matematico, un filosofo. Altiero era una persona molto pratica e con uno sguardo però anche molto distaccato rispetto a tutto quanto. Insomma, quando parlo di sguardo distaccato intendo il suo non appartenere più da un certo punto in poi a nessun tipo di ideologia politica, proprio perché aveva intuito che qualsiasi ideologia politica in qualche modo poteva in qualche maniera restringere, certo, la possibilità di esprimere intellettualmente tutto quello che era un essere umano. Certo. E l'onorevole Silvia Costa ha commentato, appunto, perché è stato presentato in anteprima a Bruxelles il film, non possiamo costruire il nostro futuro se non conosciamo il passato e le radici del sogno europeo. Ecco, un mondo nuovo racconta proprio questo sogno. Grazie davvero a Vinicio Marchioni, complimenti per questa ottima interpretazione. Ti vedremo domani sera su Rai 1, appunto, con Un mondo nuovo. Ciao e buona Europa, grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie. Ci fermiamo, un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Concorso di scrittura sull'allargamento dell'Unione. Aspiranti giovani scrittori e giornalisti, la Commissione Europea vuole conoscere la vostra opinione sull'allargamento dell'Unione. Se avete tra i 18 e i 25 anni e avete dimestichezza con la scrittura, il concorso Così simili, così diversi, così europei fa il caso vostro. Tutti i ragazzi residenti nei paesi dell'Unione sono invitati a mandare i propri articoli di massimo 1000 parole e a rispondere a due domande. Quale esperienza hai nel contesto dell'Unione Europea allargata? E in che modo l'Unione allargata può rispondere alle sfide del futuro? I vincitori saranno premiati con una visita studio di 3 giorni a Bruxelles. Per tutte le informazioni visitate il sito ec.europa.eu/Italy nella sezione Notizie, Cultura, Istruzione e Gioventù. C'è tempo fino al 27 febbraio 2015. L'altra Europa. Ancora l'Europa protagonista, siamo partiti dall'isola di Ventotene, ora invece andiamo a vedere quello che sta accadendo a Firenze in questi giorni. Si chiama How Can We Govern Europe, la tavola rotonda di alto livello promossa da EUNews. Che cos'è EUNews? Lo conoscete perché lo abbiamo insomma tante volte interpellato, tante volte citato, il primo giornale italiano sull'Unione Europea con sede a Bruxelles, che ha organizzato questa 3 giorni proprio per fare il punto su dove sta andando la governance europea, in collaborazione con la presidenza italiana del Consiglio Europeo e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Tanti incontri, tante teste attorno a quel tavolo per discutere su un presente che diventerà futuro. Con noi c'è proprio il direttore di EUNews, Lorenzo Robustelli. Ciao Lorenzo, ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi, ben trovati voi. Allora, una fotografia di quella che è e di quella che sarà l'Europa. Questo è il tentativo di fare in questi giorni a Firenze, in linea con quello che fate anche voi con EUNews, che è proprio un giornale nato per dare un altro racconto dell'Europa. Un altro racconto, cercare di andare un po' oltre la contingenza, che è fondamentale, che è importante, che noi tantissime altre testate come voi raccontiamo tutti i giorni, ma stiamo cercando di fare un passo avanti, sia come testata sia nel nostro progetto di alimentare, insomma, in Italia un dibattito sull'Europa. E come giustamente dicevi te, questa 3 giorni di Firenze serve proprio a cercare di pensare come andare avanti, che Europa avere adesso dopo 4 anni, 5 anni di crisi, sia dal punto di vista delle istituzioni, sia dal punto di vista del governo dell'economia, ma anche dei rapporti con gli Stati Uniti. Ci sarà, e con altri penso, ci sarà una sessione sul trattato commerciale con gli Stati Uniti, sulla posizione anche dell'Europa del mondo e dell'Europa dei cittadini, cercare di entrare in questo dibattito su come deve evolvere adesso l'Europa, se si deve rafforzare Bruxelles, se si deve rafforzare il Parlamento europeo, insomma come su come procedere, certo, dopo questa crisi. È stato un momento, uno spartiacque, come andare avanti. Lorenzo, prima di entrare nei contenuti di quello che è già successo, sì, di quello che accadrà, ma una domanda: i protagonisti dell'Europa, che sono un po' le istituzioni anche che saranno attorno, sì, a quel tavolo, sentono il bisogno di un nuovo modo per raccontare e raccontarsi? C'è una nuova consapevolezza di questo bisogno di rendere l'Europa più comprensibile, più calda, più vicina? Secondo me sì, ed è, guarda, questo hai ragione, e c'è anche un bisogno di, cioè è legato sia di riportare fiducia dei cittadini nell'Europa, perché sì, senza, diciamo, un moto comune, questo processo grosso è difficile portarlo avanti, e quindi c'è la necessità di capire cosa è successo e cosa potrà succedere per governarlo al meglio, sia dal punto di vista proprio della governance, sia dal punto di vista della partecipazione dei cittadini. Ora, diciamo, si è accorti che i vecchi strumenti che avevamo erano inadatti ad affrontare certe situazioni, e non sono soltanto gli strumenti di bilancio, come dire, il controllo sui bilanci degli stati, la concorrenza e così via, ma proprio che cosa si fa a Bruxelles, cosa è più giusto fare a Bruxelles, cosa è più giusto fare a livello locale. Poi c'è la volontà di discutere tra leader e anche con le istanze civili, diciamo, ecco, questo secondo me sì. Governance europea e democrazia era il titolo del primo incontro di questa mattina, da te moderato. Qual è, secondo te, un punto particolare che è uscito da questa chiacchierata? Beh, appunto, la cosa particolare è tutta questa posizione espressa da Gozzi, anche da sottosegretario Gozzi, sì, di, appunto, di ristrutturare le funzioni delle tre principali istituzioni europee, che sono Consiglio, Commissione e Parlamento, nello spirito della sussidiarietà, cosiddetto, nel senso di cercare di far fare a Bruxelles, magari anche con più poteri, alcune cose, ma poi fare in modo che a livello territoriale si facciano quelle che si possono far meglio a livello territoriale, che non vuol dire farle ognuno per conto suo, avere un disegno complessivo, ma insomma, appunto, ognuno i suoi, c'è l'esempio classico in realtà ormai superato della misura dei carciofini, dei cetrioli, sì, o, sì. Questa cosa qua lasciamola decidere a livello territoriale, ma invece lasciando a Bruxelles invece un po' più di scelte sull'indirizzo economico complessivo, sulle leggi di concorrenza, sulla posizione dell'Europa come insieme nel mondo. Certo. Secondo me un pochino sta anche passando da quello che dice Gozzi, da quello che dice anche Nelly Feroci, il nostro ex ambasciatore ed ex commissario europeo, sta un po' passando quest'idea dell'Europa che come tale fa politica estera e in nome di tutti. E invece, insomma, il bisogno, appunto, di differenziazione anche, che sembra paradossale parlare di unità e differenziazione, invece diventa proprio quello il valore aggiunto. Sarà il ministro, sì, Maria Elena Boschi con uno speech finale a chiudere i lavori nel mezzo, domani, sì, tra oggi pomeriggio e domani mattina. Cosa ci vuoi segnalare? Beh, senza dubbio la presenza di Vítor Constâncio, il vicepresidente della BCE, insomma il braccio destro e forse anche qualcosa di più di Mario Draghi, che, cioè, ci aspettiamo ci chiarisca anche le cose che abbiamo visto un po' sui giornali di ieri, questi dubbi della BCE nei confronti della posizione della Commissione su questa storia del deficit strutturale, che sembra che la BCE dica adesso, abbia detto ieri uno studio dei tecnici della BCE, però hanno messo in dubbio, no, che il parametro del deficit strutturale sia un parametro così decisivo come la Commissione ha imposto fino adesso agli Stati. Certo. Poi avremo il ministro Poletti oggi pomeriggio, e anche lui, diciamo, da parlare ne ha, sì. E poi ci sono grandi economisti come Gross, come Coppola, Mitchell, insomma c'è molta gente, rappresentante del Ministero dell'Economia. Purtroppo il ministro ha dovuto rinunciare in ultimi momenti, perché, come sapete, domani bisogna consegnare a Bruxelles questo pacchetto. Sì, quindi, insomma, sono giornate intense. Sì. EUnews.it, come sempre, vi ricordo il sito, l'hashtag di riferimento, How to Gov e EU. Niente, il programma è ricchissimo. Sul nostro sito è tutto in streaming. Ah, perfetto, ottimo, così si può appunto seguire anche in streaming la diretta. Grazie davvero a Lorenzo Robustelli, l'appuntamento è prossimamente qui all'Altra Europa. Ciao, buon lavoro Lorenzo. Grazie, buon lavoro a voi, ciao. Europost-it. Voices for Rights, per non dimenticare i bambini di Haiti. l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e la Fondazione Francesca Rava organizzano Voices for Rights, una serata di beneficenza in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini. L'evento, che si terrà presso il Teatro dell'Istituto il 27 novembre, vedrà la partecipazione della cantautrice italiana Paola Turci e del cantante haitiano Carlex Antoine. Il ricavato della serata sarà destinato ai bambini del reparto di neonatologia dell'ospedale pediatrico San Damien di Haiti. Per tutte le informazioni collegatevi al sito dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, iicbruxelles.esteri.it. Partiamo verso la periferia, non nella periferia d'Europa, ma la periferia delle nostre città, le periferie che in questi giorni stanno tanto animando la cronaca, tanti ragionamenti un po' legati a quello che è successo a Roma, a Tor Sapienza, ma non solo, perché la periferia tante volte è stata protagonista dell'altra Europa, l'abbiamo raccontata, perché la periferia è anche laboratorio di sperimentazione, è anche laboratorio di contaminazione. A Campobasso si è tenuta una ricerca, una giornata all'interno di Revive 2014, che adesso vi racconterò che cos'è, queste esperienze europee di rigenerazione urbana, esperienze concrete, buone pratiche che diventano buone pratiche condivise. E volevamo proprio parlare di questo e lo facciamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Milena De Matteis, ricercatore presso l'Università UAV di Venezia e attualmente è coordinatrice e responsabile scientifico del progetto di ricerca triennale finanziato dal MUR Living Urban Scape. Buongiorno Milena, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Cosa? Due termini subito per contestualizzare l'argomento. Per periferia cosa intendiamo dal punto di vista architettonico e cosa vuol dire rigenerare? Beh, periferia etimologicamente è un ambito urbano che gravita intorno al centro e quindi si intende come distaccato dal centro, ma in realtà non dovrebbe essere così, è sempre un luogo di vita. Uh-huh. E per quanto riguarda la rigenerazione urbana è un processo che agisce sulla città, chiaramente nei suoi ambiti in crisi e in declino, perché devono essere rigenerati, generati di nuovo, e che quindi ci consente di riqualificarla sia fisicamente, dando nuove qualità spaziali, funzionali, estetiche, ma anche insieme a miglioramenti di tipo economico e sociale, quindi non è soltanto una riqualificazione fisica ma è anche socio-economica. Uh-huh. Per un miglioramento della qualità della vita fondamentalmente. Certo, quindi un approccio anche multidisciplinare, no? C'è l'architettura ma c'è anche tanto altro, quindi tante sì. competenze, tante teste legate a questo progetto. E vi siete confrontati su esperienze pilota, su buone pratiche, in particolare di quali città? Abbiamo visto un po' le linee generali e gli indirizzi a livello europeo che sono abbastanza chiari nella recente strategia Europa 2020 e 2020. E uno dei casi studio che abbiamo affrontato con maggiore attenzione è sicuramente quello che riguarda la città di Malmo. Uh-huh. Che è famosa per la costruzione di un nuovo quartiere sostenibile, il Bo01, però in realtà noi abbiamo analizzato un quartiere da rigenerare, quindi costruito negli anni 50, il quartiere di Augustenborg, che è stato rinnovato con il progetto Ecostaden. Ok, e Milena, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, lasciamo spazio alla pubblicità e poi torniamo immediatamente da te per capire appunto in concreto cosa è successo a Malmo. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Et Federico Taddia, i miei account su Twitter e su Facebook per seguirci anche attraverso le nostre piazze virtuali. Stiamo parlando di Revive 2014, le esperienze europee di rigenerazione urbana, lo stiamo facendo con Milena De Matteis, ricercatore dell'Università UAV di Venezia. E appunto, Milena, stavamo parlando di Malmo, la cittadina svedese portata un po' come esempio virtuoso cosa è accaduto? Quali sono state le azioni di riqualificazione fisica e architettonica sulla rigenerazione sociale? Sì, parliamo di un quartiere periferico di Augustenburg, un quartiere di circa 3.000 abitanti con una serie di problematiche sviluppate nel tempo abbastanza gravi, dalle inondazioni alla obsolescenza edilizia, crisi economica, abbandono e roba varia. Sì. Quindi delle problematiche gravi che si riscontrano in molte delle periferie. Questo caso è un progetto virtuoso perché è stato definito attraverso un approccio integrato e la cooperazione di diversi attori pubblici e privati, quindi la municipalità locale, le housing association, il coinvolgimento della popolazione fondamentale fatto a diversi livelli. Ci sono state una serie di attenzioni particolari e obiettivi fatti con una programmazione intelligente distribuita nel tempo. Tra gli obiettivi principali era quello di realizzare un quartiere più sostenibile a livello sia sociale che economico che ecologico, chiaramente. E con questa grandissima attenzione al percorso partecipato, che è stato costruito attraverso degli interventi di sensibilizzazione e un attento piano di comunicazione, con un obiettivo che non era soltanto quello della trasformazione fisica, ma anche quello della creazione di coesione sociale, di ringiovanimento del quartiere, aumentarne l'appetibilità, quindi una questione anche appunto di tipo socio-economico. Ma quindi anche proprio dal punto di vista estetico, comunque vivere in un posto bello aiuta, è un'ovvietà o no? Certo, consideriamo che stiamo parlando di un quartiere pubblico. Sì. In cui una delle strategie di rigenerazione è stata poi quella di cambiare proprio la politica di housing e quindi si è creata una mixità sociale cambiando il costo degli affitti, quindi non era più il luogo dove si concentravano i disagi sociali principali, ma è stato rinnovato anche da questo punto di vista, è stata una delle strategie. Vedo che tra le strategie c'erano 10.000 metri quadrati di tetti verdi che sono diventati un parco, creando anche posti di lavoro, sì, spazi per i bambini, raccolta differenziata, car sharing, la vita pratica proprio anche che va ad abbracciare una vita migliore, una vita più sostenibile. Questo è l'esempio virtuoso, ci sono altri esempi ovviamente in Europa e in Italia state portando avanti azioni simili in qualche città? Sì, noi abbiamo lavorato con questa ricerca attraverso un ragionamento che si basava sugli spazi aperti di questi quartieri. Sì. E abbiamo lavorato in diversi territori, la città di Roma, che è un'area metropolitana, in particolare il quinto municipio, oppure nella città diffusa del Veneto, andando ad analizzare una serie di casi studio diffusi nella terraferma. E infine l'Emilia Romagna, dove abbiamo fatto un attento percorso di progettazione partecipata a Comacchio. Ok, c'è un sito internet di riferimento che ci vuoi dare? Sì, www.livingurbanscape.org. Perfetto, grazie davvero a Milena De Matteis, UAV di Venezia. Ciao, buon sabato. Grazie a voi. Ciao. Arrivederci. Europost-it. Stage retribuito a Bruxelles con i Green. Un'occasione imperdibile per tutti i laureandi e neolaureati vicino alle idee dei Green. La GEF, Green European Foundation, cerca tirocinanti. Il programma di stage nella sede di Bruxelles offre la possibilità di collaborare con le organizzazioni europee e con le fondazioni nazionali Green di tutta Europa. Il lavoro consisterà nell'organizzazione di workshop e conferenze e nella redazione di pubblicazioni, documenti e contenuti per il sito. I tirocini sono retribuiti, possono durare dai 3 ai 6 mesi e sono a cadenza ciclica. Per conoscere la prossima deadline, visitate il sito gef.eu e selezionate Internship Program nella sezione About. Con Elisa entriamo nel suo labirinto e da questo labirinto ne usciamo grazie a un filo, il filo di Ariadne, il filo di Ariane. Ariadne è questo progetto finanziato dalla Commissione Europea, che ha stanziato 8 milioni di euro nell'ambito del programma Infrastrutture di Ricerca per creare una sorta di Google, di reperti archeologici. Questa ve l'ho detta malamente, ma è l'esempio più vicino. Ma per capire bene la tipologia di questo progetto e le potenzialità immane, soprattutto per il nostro paese, che del patrimonio culturale deve fare un punto di forza, abbiamo con noi Franco Niccolucci, direttore scientifico del laboratorio VAST Lab, struttura di ricerca e sviluppo impegnata nella definizione e nell'applicazione di nuove tecnologie per il settore beni culturali, e coordinatore del progetto Ariadne. Buongiorno Franco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, cosa ha un progettone ambizioso che si svilupperà su più anni, nel senso che il tutto ciò dovrebbe concludersi entro il 2017, con numeri importanti? Stiamo parlando di 6 milioni di reperti archeologici. Cosa volete farci con questi 6 milioni di reperti? Noi lavoriamo sull'equivalente digitale dei reperti, quindi lavoriamo sugli archivi che sono presenti in tutti i paesi europei, ma non sono omogenei. Quindi un ricercatore che vuole ottenere alcune di queste informazioni deve accedere separatamente ai dati nei vari paesi, mentre con il nostro lavoro renderemo questo archivio un archivio veramente europeo, e quindi senza confini, senza barriere, una sorta di Schengen dell'archeologia. Quindi insomma l'idea è proprio quella di aprire digitalmente le porte di questi archivi e metterli in connessione tra di loro, e dare certo a tutti la possibilità, non solo agli addetti ai lavori, immagino, di accedere alle informazioni, alle fotografie. Certamente chiunque potrà accedere a queste informazioni, quindi aprire, ma anche aprire in modo efficiente, non soltanto consentire l'accesso, ma anche renderlo facile e utile. 23 partner e 7 associati di 19 paesi. Qual è la difficoltà al momento per mettere insieme tutte queste realtà così diverse, guarda, anche tra di loro? Sicuramente difficoltà non ce ne sono, perché abbiamo trovato un interesse, una disponibilità a partecipare molto superiore alle aspettative. I partner associati provengono da istituzioni di vari paesi, dalla Danimarca al Portogallo, e quindi le difficoltà sono eventualmente di carattere puramente tecnico, ma come tutte le cose tecniche si possono facilmente superare. E le ricadute che vi immaginate, al di là dell'interesse, al di là della velocità per raccogliere queste informazioni, immagino che ci possa essere tanto altro. Dunque, come lei giustamente diceva, questa è un'infrastruttura di ricerca, quindi si rivolge principalmente in primo luogo ai ricercatori del settore e ai professionisti, quindi i manager, quindi quelli devono anche adottare gli strumenti di tutela e di conservazione. La prima ricaduta è nei confronti di questo pubblico, che non è piccolo. In Europa si parla di 50.000 archeologi, e come sappiamo il problema della tutela e della conservazione del nostro patrimonio, prima di tutto per l'Italia e poi anche per gli altri paesi, è di grande attualità. Quindi noi ci aspettiamo, soprattutto ci rivolgiamo a questo pubblico. Per quanto riguarda il largo pubblico, chiaramente ci possono essere degli interessi di carattere culturale, e potranno accedere, avere informazioni. Quindi diciamo, non è ristretto soltanto a una piccola cerchia, ma potrebbe diventare una cosa veramente aperta a tutti e interessante. Ariadne, la scelta del nome, insomma, non è una scelta a caso. Non è una scelta a caso, diciamo c'è stato un po' di buon marketing, perché Ariadne è una sigla, quindi significa rete avanzata per l'integrazione dei dati archeologici in Europa, ovviamente in inglese. Però a questo punto il nome è piaciuto, perché questa principessa di, come tutti sanno, la storia di Teseo, che doveva entrare nel labirinto per uccidere il Minotauro, certo. E questo, nel nostro caso, il Minotauro è il caos, è il disordine degli archivi, e noi speriamo di essere Teseo e con il filo delle Arne ritrovare anche l'uscita e riapparire poi alla luce, offrendo un servizio di grande importanza che è molto apprezzato fuori d'Europa. Io agli inizi di dicembre andrò negli Stati Uniti a presentare questo progetto, che è una cosa che abbiamo in Europa, e ci stanno considerando come un modello anche qui in India. Sicuramente, insomma, è sicuramente un progetto di eccellenza. Ariadne, linetainfrastrutture.eu per tutte le informazioni. Questo è il sito internet. Grazie davvero a Franco Nicolucci, buon sabato, buon lavoro. Grazie anche a lei, arrivederci. Neuropostit, le informazioni per chi sta viaggiando, è ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Internship ECMI sulle minoranze. L'Istituto di ricerca sulle minoranze European Center for Minority Issues, che ha sede a Flensburg in Germania, è sempre a caccia di tirocinanti per incrementare e stimolare la ricerca nel settore delle minoranze. I candidati selezionati parteciperanno alla ricerca e alla gestione dei progetti dell'ECMI, prenderanno parte a tutte le attività del centro e avranno la possibilità di fare un'escursione per visitare le istituzioni della regione. Gli stage sono della durata di 3 mesi. Il prossimo termine per inviare le domande è il 31 dicembre 2014. Per tutti i dettagli visitate la pagina ecmi.de/people/intern-positions. L'altra Europa. Ogni volta che parliamo di conflitti parliamo di paesi, l'uno contro l'altro, l'uno in tensione con l'altro. E se riuscissimo, anche noi che abbiamo responsabilità istituzionali, politiche o diplomatiche, a pensare che invece di usare il nome del paese possiamo usare il nome del popolo e pensare che dietro ognuno di quei paesi, dietro ognuna di quelle capitali ci sono tantissime persone che hanno un interesse nella pace, allora forse anche noi riusciremo ad attivare dei canali di comunicazione più efficaci tra di loro e con loro. Erano le parole di Federica Mogherini, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, parole con le quali ha commentato questa giornata particolare che si è tenuta il 18 novembre a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo. Un doppio appuntamento che ha visto una conferenza dal titolo Europa, una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre, e uno spettacolo musicale intitolato Dissonanze in accordo. Tutto questo promosso da Rondine, cittadella della pace, un'esperienza unica, un'esperienza italiana, un'esperienza che ha portato a riflettere sul tema della guerra all'interno del Parlamento europeo. Diamo il benvenuto a Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine. Buongiorno Franco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi, buongiorno. E poi c'è una delle studentesse che vive a Rondine da luglio 2013, diamo il benvenuto a Maria Carapetian. Ciao Maria. Buongiorno a tutti. Spero di aver pronunciato bene il tuo nome. Tu studi a Roma 3 Educazione alla Pace, sei di origine armena. E Franco, che cos'è Rondine? Beh, Rondine è un luogo, prima di tutto, è un borgo di origine medievale in Toscana, a 10 chilometri dalla città di Arezzo. È un luogo che abbiamo ricostruito, trovato abbandonato più di 20 anni fa, l'abbiamo ricostruito e adesso ospita l'esperienza dello studentato internazionale, dove vengono giovani dai luoghi di conflitto e che hanno sulla propria pelle, nella propria vita, l'etichetta del nemico. Accettano di incontrarsi da nemici per vedere se nel progetto formativo educativo di Rondine possono rovesciare i loro atteggiamenti profondi, la loro storia, è diventare addirittura l'opposto, degli amici, per tornare poi a casa e incidere nelle strutture, nelle dinamiche, nei loro popoli, proprio come diceva l'alto commissario, certo, Federica Mogherini. Maria, tu stai vivendo questa esperienza di Rondine, tu hai vissuto l'esperienza a Bruxelles, com'è andata? Cosa avete portato in scena? Abbiamo portato in scena il nostro spettacolo Dissonanze in accordo, che è un concentrato di quello che è Rondine, solamente interpretato nelle forme diverse di arte. C'è la musica, c'è la parte dei libri, sì, che raccontano delle guerre, e ci sono sono le testimonianze dei studenti di Rondine che verificano che quella arte e quei libri parlano delle cose vere. Quindi questa è la quotidianità di Rondine, quotidianità che tu vivi. Ti sta cambiando questa esperienza a Rondine? Mi sta cambiando ogni giorno, ogni minuto. Sì, eh? Sono molto felice di questo cambiamento. Franco, questo è quello che avete portato al Parlamento europeo. Che significato ha da una cittadella e di studenti che nel loro piccolo vogliono cambiare il mondo e riuscire a entrare al Parlamento europeo e portare questa storia? Ma un grande significato, perché direi almeno un paio. Il primo, perché questi studenti sono tutti, come dico io, i pronipoti di quella sciagurata guerra che avvenne 100 anni fa, la prima guerra mondiale. Sì. Se andiamo a vedere i loro territori, Balcani, Medio Oriente, fino giù, India, Pakistan, la questione dell'Africa, sono tutti gli esiti tragici di quella guerra, di quella rottura drammatica di quell'equilibrio. La seconda è perché questi giovani che in qualche modo portano la voce dei loro popoli, la parte migliore, non hanno la consapevolezza che da soli non possono fare nulla, bisogna ritrovare l'alleanza vera con le istituzioni, e questa è la politica con la P maiuscola, nella quale crediamo fortemente, perché altrimenti ogni progetto educativo sarebbe velleitario. E Maria, voi il concetto di Europa lo respirate, lo vivete, che cos'è per te l'Europa oggi? L'Europa per me oggi è un modello di successo, di convivenza tra i popoli, tra i paesi, ma è un modello che non, secondo me, non deve essere aspirato come aggiungerci a quel modello, ma forse riprodurre una esperienza simile nelle nostre regioni del mondo. Mi piacerebbe un giorno vedere un'unione del Caucaso, per esempio. Insomma, è assolutamente auspicabile anche questo, nel segno della pace, ma la pace non fine a se stessa, la pace che fa cambiare, che fa crescere. Franco, voi riflettete all'interno di Rondine quotidianamente di queste tematiche, al di là dell'aspetto da visionari, al di là dell'aspetto della speranza, c'è una forte attenzione anche alle competenze, servono competenze per arrivare alla pace? Assolutamente, noi selezioniamo dei giovani che devono essere molto bravi, devono amare gli studi, devono sentirne la fatica e la passione, e poi avere certamente un cuore grande e generoso, perché le ambizioni personali non bastano, devono saldarsi in una visione collettiva. Io dico sempre che i sogni collettivi generano la felicità, quelli individuali è una felicità effimera che si conclude magari appena ottenuto l'ultimo smartphone di moda o l'ultima motocicletta. Invece sognare insieme è quel ponte che rende possibili molte delle cose per cui bisogna prepararsi con grande serietà. Maria, cosa ti sei portata a casa da Bruxelles dentro di te? Una grande ispirazione di incontrare l'alto rappresentante, che ci ha detto tante parole di supporto, e sono sicura che insieme possiamo tradurre quelle parole nelle azioni. Franco, anche per te credo che sia stato questo il souvenir più importante. Ma sì, direi di sì, perché è avvenuta questa iniziale saldatura, la chiamo saldatura perché come... visto quando i fabbri saldano, no? Quelle, sì, belle scintille che però lasciano due pezzi che prima erano separati e uniti. Mi pare che questo è avvenuto dentro le istituzioni, abbiamo visto che c'è un'abitazione di persone che hanno a cuore le sorti sia dell'Europa, che non può lasciarsi così prendere dalle onde depressive, sì, degli inevitabili periodi di crisi, sia delle voci di questi giovani che sono le voci delle sofferenze che vediamo tutti i giorni sui giornali, e che invece forse il compito storico è di risolverli partendo da quello che abbiamo come deposito culturale e politico. Questa è l'Europa delle persone che ci piace raccontare. Un grazie davvero a Maria, un grazie a Franco Vaccari. Rondine.org il sito per tutte le informazioni. Un grazie a Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, a Peter Bescapè alla parte tecnica, e l'altra Europa @radio24.it se volete contattarci, oppure attraverso Facebook e Twitter, il mio account personale. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.